cucinando con cuore. Ah, va, tu può succedere. E chi è questa stronzata, cazzo? È la società dei magna magna. E chi mi può mangiare su te le pelle? E chi mi può mangiare su te le pelle? Certi individui, tipo che di l'asilo di la mezzi, due. Buonasera, buonasera. Buonasera. E poi a chi? Eh? E poi a chi magna magna? Che sono... magna magna per... che cioè, ai, ai parlamentari che dichiarano 3.000 euro al mese, solo po'. 3.000 euro, manco 3.000 euro, tende, pensa che non vuoi che da molto che ti devo pigliare le medicine, qua mamma da, che ti posso canolongo e ti può pigliare un cancro pangre, ti posso canolongo! Oh, calmati perché sennò una cosa piglia la buca, la buca non dice l'ambulanza che è passata, però non ci mettiamo la mano sul fuoco. Gentilmente! Speriamo che se che ti ha ripigliato la mano. Come si chiama? Chi? Asce le porte, sapete? Pizzacane. Buonasera. Mi spiego. Mi fa cadere. Che oggi è morto la democrazia. Chi sono quello di pazzi? Chi sono nella radio? E chi è? Lo struscio. Chi sorrida? Faccio per la voce! Ride per non piangere. Questo è Non aprite quella persiana 1.10. Va bene così. Okay. Se non l'avete capito, siamo i soliti quattro scalmanati, compreso il regista che è più scalmanato mai. Vi saluto il regista. Questa che avete sentito masticare è Laura. Esatto. Qui abbiamo invece. Io questa frase non la leggerò mai, sappilo. Alleluia, c'è un problema. Sallo! Laura con la stufa troppo vicino alle gambe si brucia. Scusi signor regista, stavo... Scusi signor regista, stavamo presentando ha detto anche tu un brisignanese. Però sappi, per tenerlo in vita lo devi proprio imbacchiare in bacio a una stufa. E come disse pazza per licori. Per licori o volando. No. Ce lo puoi ripetere per favore? Non lo so dire. Fammi vedere come dici. Ma abbiamo finito la sagra dell'impollinazione, qua possiamo andare avanti. Ma no! Maneggio devi chiedere. Possiamo invitare a fare insulti, da invitare il nostro pubblico a insultare. Andrina Morrone. Volevo... Volevo dire una cosa. Andrina Morrone. Buongiorno. Oppure i numeri in bisignanese, Guno, due, due. E soprattutto ragazzi, Gotto. Uno con te punti ci smaiva. No, lo puoi dire per favore qua che non ti ho sentito. Guno, Gotto e Bundici, Rua, Rurice di Re e Riccio. Ragazzi, un bisignanese che si impinge parlando il bisignanese è tutto da è solo web radio. Dizione di Bisignano. Si effettua una lezione dal lunedì al mercoledì. E se chi dice grazie di Michele? A me mi sta ammazzando! Con muore Laura. Va, ciao Perlico. Siamo a Natale, dobbiamo essere buoni. A Natale poi. Se mi metti la capi che muore. Ho l'hai capito. E va scustumato. Sì, l'ho capito. No. Capito, va. Ti ci facevo un disegnino. Parigi. Comunque, scusa un attimo, possiamo dire una cosa? No. Mentre stiamo assistendo alla fine di una storia d'amore. Comunque, non so se arriveremo alla fine di questa puntata. Dichiamo. Per il cuore non ci arriverà. Dichiariamo aperta questa puntata 1.10 che non arriva. Per il cuore non ci arriverà, t'ha detto. Con i cazzi! E si grappa! Donne, attenzione, c'è per il cuore armato di. Comunque vogliamo invitare i nostri ascoltatori a trovare su internet il numero dell'ASP di Lavezia Terme, perché l'ASL di Lavezia Terme, perché dobbiamo fare tagli, dobbiamo fare tutto quello che vogliono, no? Esatto, come dice, questi sono i tagli del governo Monti. Praticamente si tussi di cazzo, si tussi di cazzo, praticamente diciamo una cosa seria, capo, poi mi vai il curco, è già tardi, caso domani mattina io alla scuola. Ritornano. Allora, se queste teste di cazzo non hanno tagliato le auto blu, non hanno tagliato i loro stipendi, i dirigenti dell'ASL, che gli auguro tante medicine comprate con i loro stipendi. No, ma si frega l'ospedale! L'importante è che non siano non curabili le medicine che utilizzino. Scusa, invece di le medicine che si comprano, che si fregano in ospedale, auguriamo i bonifici che dovranno dare alle onoranze funebri, così facciamo prima. Ecco, come sei piaciuto. No, ci hanno da uno per uno sballato. Allora, voglio dire una cosa seria, perché praticamente l'ASL di La Mezza Terme ha sospeso. Questa è l'ASL di La Mezza Terme. Facciamola risentire. Ok. L'ASL di La Mezza Terme ha sospeso. Com'è? Praticamente. Si spostati. Le cure a 150 disabili. E che si casi? 150 disabili. Mo su mezzanavia. Su mezzanavia, non sanno manco come campare. Quindi, cara ASL di La Mezza, bafangolo. Bafangolo, ecco, dal più profondo del nostro cuore. Censuratene! E a vaffanculo. Vabbè, poi vogliamo concludere che Amanda Rox è una puttana e che Raffaella Sollecita è un minchione e che il grande fratello ci ha rotto la minchia. Ma nessuno dice niente su Biagio Antonacci? Chi? Un messaggio morto! No! Sto chiamandoti. Un messaggio proprio scoperto perché da un messaggio Antonacci. Io lo so perché c'è Biagio Antonacci. Poi lo diamo il messaggio. Perché praticamente uno di noi è un fan di Biagio Antonacci. C'è uno che non è qui questa sera. E parli cori! Però ci assomiglia un poco. Però. Sì, a roscuro qua. Però questo è già sabato. È il dottor Margheritoni che ci fa danni. È lui la talpa che mette i messaggi di Biagio Antonacci. Ora cerca il bottone giusto, no, perché no, si sta bruciando. No, abbastanza. Però non la risposta la stufa. Però il numero giusto è 115. Comunque, il numero giusto. Il numero giusto è 115, vigile del fuoco. Ah, no, no, ma chi sa la messa benzina? Cosa, Emi? No, no. La stufa! Perché chi ci ascolta alla radio potrebbe facilmente fraintendere. Mi stanno tagliando. Dobbiamo dire il messaggio che è arrivato a Biagio Antonacci. Che messaggio? Gli hanno mandato diversi email, no? Che gli hanno consigliato di andare a curarsi presso l'azienda sanitaria provinciale di La Mezza Terme. Sì, va cura Madonna, va. Ciao, sono Biagio Antonacci, anch'io sono stato da Cesare Ragazzi. Sì, però ti ha trattato in merda Cesare Ragazzi. Sono orgoglioso.